necessario oppone, prevengo l'imminente caduta. Onore ove i fili avvisi miei nel gran periglio, un infida sua donna stolido e cieco il rende. Se potessi farli chiaro vedere il suo gran scorno, forse se stesso un dì faria ritorno. Ma in questo ascoso loco caio con l'inferele il pie rivolge. Cesare, io avvo avvisar, e forse io spero far che nell'onta sua pur vegga il vero.